sette e mezza del mattino, io mi sveglio, indosso la mia divisa scolorita, barba e capelli ed alza bandiera, son già le 8 ma prima di scendere voglio guardare la tua foto nel cassetto. Per ricordarmi che io ti amo, caporale, ho una lettera d'amore nascosta nella canna del fucile. Sono pronto ad eseguire tutto ciò che vuoi ordinare. E pronto alla guerra e a fare l'amore. Avanti marsch. Avanti marsch. Passo il tempo ad osservare il tuo modo di marciare. Piuttosto sparami al cuore, prendo il coraggio e mi avvicino, ti guardo negli occhi e dico piano, ti prego stasera dividi il tuo rancio con me, la tua foto nel cassetto. Per ricordarmi che io ti amo, caporale, ho una lettera d'amore nascosta nella canna del fucile. Sono pronto ad eseguire tutto ciò che vuoi ordinare. Pronto alla guerra e a fare l'amore, a fare l'amore, a fare l'amore, a fare l'amore.